e il suo mondo politico ancora scossi dall'inchiesta con 100 indagati. E arriva intanto il rapporto annuale sulla corruzione. Il nostro paese è al 69esimo posto, ultimo in Europa. Transparency International lancia il portale per denunciare. Schettino interrogato: io sulla nave come comandante sono il primo dopo Dio, ritardai l'allarme, altrimenti si sarebbero tuffati. Nel paese del Ragusano, dove è stato ucciso il bambino di 8 anni, arrivano anche i ROS del caso Gambirasio, la madre convocata ieri in questura. Sulla riforma del mercato del lavoro, il governo mette la fiducia al Senato. Poletti dice: testo migliorato, le norme non creano posti ma nuove opportunità. Sì. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, se volete potete scriverci al 349-238-6666 durante la trasmissione, c'è anche la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno e c'è naturalmente l'email effettogiorno@radio24.it anche per commenti e osservazioni. In apertura naturalmente torniamo sull'inchiesta che sta sconvolgendo la politica romana e non solo quella, in un intreccio tra istituzioni e criminalità organizzata del quale ieri vi abbiamo iniziato a parlare in conseguenza appunto dell'inchiesta, delle notizie dell'inchiesta della Procura di Roma. Sono molti i capitoli ancora da aprire, molte le carte nelle quali scavare tra le 1100 pagine dell'ordinanza, particolari che continuano ad emergere. Iniziamo a sentirne qualcuno. Le mazzette pagate un tanto al mese, in modo da tenere i corrotti ben stretti al guinzaglio. Mafia Capitale funzionava così: tangenti e chi rivestiva ruoli nei posti chiave, elargite fino a quando faceva comodo all'organizzazione. 5.000 euro al mese, secondo l'accusa, all'ex capo della polizia provinciale Luca Odevaine, per dirottare gli appalti alle cooperative di Salvatore Buzzi, braccio economico dell'organizzazione. 1.500 euro a Mario Schina, responsabile del decoro urbano ai tempi della giunta Veltroni. Fine 15.000 euro mensili consegnati a Franco Panzironi, amministratore delegato dell'AMA. Soldi che rientravano nelle casse dell'organizzazione perlomeno decuplicati, così Salvatore Buzzi, intercettato, rassicurava il suo interlocutore. Ma rientra tutto, rientra tutto. Il gruppo criminale guidato da Massimo Carminati preferiva pagare per ottenere quello che voleva, ma non si tirava indietro se c'era da menare le mani. Quello che non riuscivano a ottenere con la corruzione se lo prendevano con le minacce, ma spesso erano gli imprenditori che si rivolgevano a loro per ottenere favori e lavori, per farsi spazio nella mangiatoia, proprio come succede in Sicilia con Cosa Nostra. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E naturalmente continuano a sentirsi gli echi di tutto questo nel mondo politico, non solo romano. Chiede trasparenza Ignazio Marino. Questa storia è la prova che bisogna fare pulizia, dice il primo cittadino della capitale dopo la bufera che ha investito anche la sua giunta e parte di quel PD romano con il quale i suoi rapporti non sono stati sempre idilliaci. Abbiamo subito pressioni continue alle quali però abbiamo sempre sbarrato la strada e forse questo spiega gli attacchi contro la mia amministrazione, dice oggi il sindaco di Roma, già al lavoro per un rimpasto della sua giunta dopo le dimissioni dell'assessore alla casa Ozimo. Indagato nell'inchiesta, intanto il predecessore di Marino, Gianni Alemanno, oggi ha deciso di autosospendersi da tutti gli incarichi in Fratelli d'Italia. Il mio impegno principale ora sarà quello di dimostrare in maniera chiara e puntuale la mia estraneità agli debiti che mi vengono mossi, ha spiegato Alemanno. Ad intervenire sulla vicenda stamattina è anche Laura Boldrini. Manifesto il mio totale sdegno. La giustizia deve andare avanti fino in fondo. È deprecabile che ci sia gente che fa affari anche sulle spalle delle persone più deboli, ha detto stamattina la presidente della Camera visitando una cooperativa per disabili nel centro della capitale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E come avete sentito già ieri, come già abbiamo accennato ieri, ma oggi scendiamo nel dettaglio, tra le intercettazioni ce n'è una nella quale l'imprenditore Bruzzi dice che il business della gestione degli immigrati vale più di quello della droga. A questo tra l'altro viene dedicato ampio spazio sul Sole 24 Ore oggi con un'inchiesta a firma Claudio Gatti. La nostra Valentina Furlanetto si è addentrata in questo mondo e ha fatto i conti, sentiamo. Tu sai quanto ci guadagno sugli immigrati? Il traffico di droga rende meno. Così al telefono Salvatore Buzzi, braccio imprenditoriale di Massimo Carminati. D'altra parte il bottino è alto. Nel 2013 per accogliere i migranti sbarcati nelle nostre coste l'Italia ha speso 1,8 milioni di euro al giorno. Di questa cifra al migrante spettano le briciole. All'incirca 2,50 euro al giorno il resto va all'ente che gestisce i centri di accoglienza. Guadagnare con i migranti in fondo è facile. Una volta vinta la gara d'appalto basta riempire all'inverosimile i centri. E a volte non c'è neppure gara. Come nel 2008, scrive Claudio Gatti sul Sole 24 24 ore di oggi, quando la corsia preferenziale creata ad Angelo Chiodazzo per ottenere l'appalto da 1 milione di euro per il CARA di Policoro arrivò da un via libera del prefetto Mario Morcone, già allora capo dipartimento immigrazione del Ministero dell'Interno. Morcone, ai nostri microfoni, fornisce la sua versione. E la vicenda del 2008 non c'entra assolutamente niente con le vicende di cui stiamo parlando, che si sono svolte a Roma e che mi vedono totalmente estraneo ad una vicenda archiviata in istruttoria. Si trattava semplicemente di trovare posto a 120 migranti e dette la disponibilità un'associazione che già gestiva un centro CARA, quello di Bari. È sicuramente un settore appetibile, no? Lei ha mai avuto sentore di questa appetibilità? Su questo non c'è dubbio. I CARA sono il vero affare dell'accoglienza perché i richiedenti asilo rimangono per mesi, anni negli 11 CARA d'Italia e più rimangono e più sono soldi. Quello di Mineo, vicino Catania, è il CARA più grande d'Europa. Avrebbe 2.000 posti letto ma tiene 4.600 persone che fruttano il consorzio calatino Terre d'Accoglienza 4.774.000 euro al mese, fanno 50 milioni di euro all'anno. Dopo la chiusura della Fiat di Termini Imerese, il CARA di Mineo è la prima azienda della Sicilia. Esperto del presidente del CDA per il consorzio calatino Terre d'Accoglienza è niente meno che Luca Odevaine, ex vicecapo di gabinetto del sindaco Walter Veltroni e tuttora al tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. Secondo le intercettazioni diffuse oggi sarebbe al soldo di Carminati. In generale, comunque, le connessioni fra i CARA e gli ambienti vicini al Ministero dell'Interno sono più di una. Dopo lo scandalo delle docce antiscabbia, ad esempio, a gestire il CIE di Lampedusa per le misericordie, è stato chiamato Lorenzo Montana, che ha una parentela ingombrante. Sua figlia è infatti sposata con Alessandro Alfano, fratello del Ministro dell'Interno. A gestire il CARA di Mineo è stato per anni Giuseppe Castiglione, ex presidente della provincia di Catania, uomo forte in Sicilia di Angelino Alfano. Valentina Furlanetto, Radio 24, il Sole 24 Ore. E torneremo poi tra poco su queste vicende, sentiremo che cosa ne pensa a proposito soprattutto del lato che riguarda il Partito Democratico, dell'inchiesta, sentiremo che cosa ne pensa Michele Emiliano del PD, adesso candidato alla presidenza della Regione Puglia, come sapete sempre duro su queste vicende, e poi torneremo a parlare della vicenda di Carminati, quello che sarebbe il boss di questa cupola romana, chiedendoci e cercando di capire come mai un uomo con un passato criminale di quelle dimensioni fosse ancora a piede libero. Noi restiamo però nel frattempo sulla cronaca per parlare della vicenda del bambino che in provincia di Ragusa è stato ucciso. Oggi sono arrivati nuovi rinforzi per gli investigatori, gli aggiornamenti da Raffaella Calandra. Raffaella. Sì Simone, dopo una giornata di interrogatori, l'ennesima quella di ieri, oggi a Ragusa si tirano le prime fila degli indizi raccolti e dei dubbi rimasti intorno al delitto di Loris Stival. 5 giorni dopo l'omicidio del bimbo di 8 anni, tutti gli investigatori infatti stanno facendo il punto in una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, compresi gli investigatori arrivati da Roma. Allo stato ci sono ancora tante tessere che non tornano al loro posto e tanti interrogativi intorno alle ricostruzioni, ad esempio, dei due protagonisti al momento di questa drammatica storia, colui che ha ritrovato il corpo senza vita del bimbo e colei che l'ha visto per l'ultima volta da vivo, cioè il cacciatore che ha ritrovato Loris nel canalone e la mamma che l'ha accompagnato a quanto ha raccontato davanti alla scuola dove però il bimbo non è mai entrato. Incongruenze e domande pesano sulla versione data tanto dal primo, ora indagato ma solo per effettuare degli esami sulle sue auto e suoi vestiti, quanto però anche dalla seconda, rimasta ieri fino a tardasera in questura, e si indaga anche sui rapporti proprio tra la famiglia di Loris e quella del cacciatore. Alcuni dubbi in realtà potrebbero essere ancora fugati dalle perizie attese per i prossimi giorni, quelle sugli slip ritrovati ieri davanti alla scuola, che sembravano proprio quelli mancanti al bambino, ma invece non sono stati riconosciuti dalla mamma. E dall'esame delle altre telecamere del paese, uno dei paesi super controllati, in nessuna fino ad ora compare Loris, anche laddove invece le immagini riprendono la mamma con l'altro figlio piccolo. Ma perché Loris non c'era? E allora si torna ai dubbi rimasti e agli indizi invece fin qui raccolti, ma gli inquirenti sono fiduciosi che quelle 2-3 piste privilegiate portino presto ad una svolta. Simone. Grazie Raffaella Calandra, noi restiamo sulla cronaca e poi passeremo a parlare purtroppo di scadenze fiscali, però prima vi raccontiamo questa nuova udienza del processo per la Costa Concordia, anche oggi protagonista Schettino. Secondo giorno di udienza per Francesco Schettino, l'ex comandante della Concordia è chiamato questa volta a spiegare perché non diede subito l'allarme nel naufragio. Morirono 32 persone e numerose rimasero ferite. Perché dunque Schettino non diede subito l'allarme, chiede il PM. La voce infastidita, una lieve esitazione, poi la risposta dell'ex comandante. Se mi continuavano a chiamare e condicendo che cosa è successo, significava che nessuno li aveva avvisati. Allora provvedo io da questo momento in poi, dopo 20 minuti, dopo quello che è, di dire via telefono alla capitaneria, digli che abbiamo una via d'acqua. Ho chiamato per... Sulla nave io come comandante sono il primo dopo Dio, continua con voce laconica Schettino, rispondendo al PM Alessandro Leopizzi, che lo incalza sul tardato allarme dopo l'urto della Concordia al Giglio. Infine la spiegazione: volevo far arrivare la nave più possibile sotto l'isola, altrimenti se avessimo dato i 7 fischi brevi e uno lungo con le vibrazioni che c'erano state, la gente si sarebbe buttata in acqua. Prosegue dunque a Grosseto l'interrogatorio dell'ex comandante, contro il quale l'accusa intende chiedere 20 anni di carcere. Dopo la manovra, l'urto e la prima emergenza, viene trattata la fase dell'abbandono della nave e lo sbarco sul Giglio. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed eccoci dunque a parlare di scadenze fiscali che si avvicinano, sono quelle che riguardano l'IMU e la TASI. Oggi Il Sole 24 Ore dedica uno speciale di 16 pagine per aiutarvi. C'è in studio con noi Saverio Fossati. Saverio, eccoci, buongiorno. A cosa dobbiamo stare attenti? Direi innanzitutto bisogna rifare i conti, no? Quindi sarebbe opportuno che tutti controllassero molto bene i conti che hanno fatto per l'acconto, che alcuni hanno pagato a giugno, altri per la TASI hanno pagato addirittura a ottobre, e verifichino poi con il calcolatore che è a disposizione di tutti sul sito del Sole 24 Ore se hanno fatto qualche errore, perché questo del saldo è l'occasione appunto per rimediare. Quindi io direi che è il caso di rifare tutti i conti, tirare via quello che si è già pagato in acconto e sistemare tutto con questo saldo del 16 dicembre. È da ricordare che in qualche caso il saldo è anche l'unico pagamento, si tratta del pagamento della TASI in quei comuni dove non è stato pagato l'acconto perché non erano state fatte le delibere. Sono parecchi, quindi i contribuenti che non l'hanno fatto giustamente né in giugno né in ottobre dovranno fare adesso come saldo tutta la TASI. Per gli altri invece si tratterà del pagamento della seconda rata, in sostanza, sia dell'IMU che della TASI, in base alle complicate delibere che ciascun comune si è costruito. Molto complicate per orientarsi appunto in questo labirinto, cioè il Sole 24 Ore oggi in edicola, con 16 pagine, scadenze che chissà quanto pesano sulle spese, quanto peseranno sulle spese natalizie degli italiani. Ci arriveremo tra un attimo perché c'è un'inchiesta della Confcommercio proprio su questo, sulle spese degli italiani per Natale, ma intanto andiamo alle cronache parlamentari che si incrociano con quelle economiche, perché è arrivata la richiesta di fiducia sulla riforma del mercato del lavoro. Alessandra Schepisi, buongiorno. Eh sì, buongiorno, è così, è conto alla rovescia per il varo del Jobs Act. Il governo, come previsto, poco fa ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge delega di riforma del mercato del lavoro al termine della discussione generale che era ripresa questa mattina in Senato, ed è stato lo stesso ministro del lavoro Poletti in aula a comunicarlo. Il governo punta a far tagliare il traguardo alla riforma tra stasera e domattina, in anticipo dunque rispetto allo sciopero generale del 12 dicembre. Siamo rispettosi, ha detto Poletti, riferendosi ai sindacati, della responsabilità che ognuno assume nel proprio ruolo, ma il governo ha il dovere di prendere le sue decisioni. Ricordiamo che si tratta della terza lettura di un provvedimento che, una volta approvato al Senato, diventerà legge, anche se occorre varare i decreti delegati. La riforma prevede il superamento dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori per i neoassunti, il contratto di lavoro a tutele crescenti, e nel licenziamento economico illegittimo scatterà un indennizzo crescente con l'anzianità di servizio. Un testo, a detto sempre il ministro Poletti, significativamente cambiato e migliorato dal Parlamento, ma un testo, come sappiamo, che scontenta una parte del PD. In questo momento la seduta in Senato è sospesa perché subito dopo l'annuncio della fiducia è stata convocata una conferenza dei capigruppo per stabilire il nuovo calendario, quindi tra poco conosceremo meglio i tempi di votazione. Da Roma è tutto. A proposito del ministro del lavoro Poletti, ci scrivete via sms del fatto che non parliamo della foto che lo ritrae e che, come dire, riemerge in questo momento nel quale si parla dell'inchiesta sulla cupola romana, una foto di una cena voluta da Salvatore Buzzi, che era considerato, come abbiamo raccontato, il braccio destro dell'ex NAR Massimo Carminati, e foto di una cena in un centro di accoglienza nella quale c'è appunto Poletti nel suo ruolo di presidente delle Coppa. Volevo dirvi, non preoccupatevi, non omettiamo niente e questa vicenda non finirà oggi, e quindi torneremo naturalmente a parlarne, forse anche di questo. Intanto ci sentiamo che cosa prevede Confcommercio per le spese di Natale. Nonostante tutto, non si rinuncia alla tradizione e ai regali, anche se il Natale 2014 sarà molto dimesso per oltre 7 italiani su 10. Aumenta quindi la quota di pessimisti rispetto all'anno scorso e la parola d'ordine rimane l'austerità, secondo l'ufficio studi di Confcommercio, che però intravede una linea di resistenza. Resta stabile infatti la percentuale di famiglie che effettuerà regali, magari solo pensierini, l'85,2% degli italiani, come l'anno scorso. Resistono, a dispetto della crisi che ancora non molla la presa, e delle tasse che mangeranno una fetta delle tredicesime, il loro aumento, secondo Mariano Bella, responsabile Centro Studi. Stiamo passando da una lunga recessione a una stagnazione cronica. Con queste premesse si arriva al Natale, in cui un piccolo incremento delle tredicesime viene neutralizzato dall'incremento di imposte, soprattutto dal saldo TASI e IMU. Vorrà dire 40 euro in meno circa famiglia sui consumi aggiuntivi di Natale, una riduzione del 3% a dicembre rispetto all'anno passato. Si sceglie bene, la lista non cambia di molto, ma i prodotti tecnologici restano in cima alle preferenze degli italiani e passano in due anni dal 10 al 15%. E se i redditi sono quelli di 27 anni fa, i consumi sono ai livelli di 17 anni fa, sarà per forza un Natale vecchio stile. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Le mani della cupola romana sulla gestione degli immigrati è un affare da centinaia di milioni di euro l'anno. Il mondo politico della capitale è scosso dall'inchiesta con 100 indagati. C'è anche il rapporto annuale sulla corruzione di Transparency International. Il nostro paese è al 69esimo posto, ultimo in Europa. Schettino interrogato: io sulla nave come comandante sono il primo dopo Dio, e aggiunge: ritardai l'allarme, altrimenti si sarebbero tuffati. Nel paese del Ragusano, dove è stato ucciso un bambino di 8 anni, arrivano anche i ROS del caso Gambirasio, la madre convocata ieri in questura. Sulla riforma del mercato del lavoro, il governo mette la fiducia al Senato. Poletti dice: testo migliorato, le norme non creano posti, ma nuove opportunità sì. E torniamo sulle vicende dell'inchiesta che sta sconvolgendo il mondo politico romano. Una battuta che circolava in Campidoglio ieri, citata oggi dal Messaggero: il rimpasto lo ha già fatto la procura, perché come sapete si ipotizzava un rimpasto nella giunta Marino. Che cosa è successo ieri da questo lato? È successo che ci sono una serie di indagati eccellenti: il presidente del consiglio comunale Mirko Corati e l'assessore alla casa Daniele Ozimo, entrambi del Partito Democratico. Indagato anche Eugenio Patanè, un consigliere regionale, sempre del PD, per finanziamento illecito e turbativa d'asta. E ci sono delle intercettazioni anche inquietanti. Per quanto riguarda le primarie, a fine ottobre 2013 una domanda di Carminati, il boss di questa cupola, intercettato, che dice: come siete messi per le primarie? E Buzzi, l'imprenditore, il suo braccio destro, risponde: stiamo a sostenere tutte e due, avevamo dato 140 voti a Giuntella e 80 a Cosentino, che è l'attuale segretario romano del Partito Democratico. Michele Emiliano, candidato del PD alle regionali in Puglia e tra l'altro ex magistrato, la saluto. Emiliano, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Come giudica questa vicenda, direi soprattutto dal lato del suo partito? Poi naturalmente ieri abbiamo parlato ampiamente del fatto che è indagato anche Gianni Alemanno, che ci sono molti ambienti della destra coinvolti all'interno di tutto questo, però la vorrei sul suo partito. Ovviamente noi prendiamo atto di un lavoro strepitoso fatto dalla magistratura romana, perché la magistratura in questo paese, purtroppo per noi, ha ancora il ruolo di doversi interessare di molte questioni delle quali forse dovrebbe occuparsi prima la politica e devo dire l'intera società italiana, nel senso che quando il calcio si corrompe la politica arriva al punto da mettere la capitale d'Italia sotto una cupola che peraltro resiste ai cambiamenti di governo, perché se ho capito bene è questo l'assunto, il sistema viene messo a punto in una certa epoca di governo della città da parte della destra, appunto che il procuratore Pignatone ha adoperato il termine di nazi mafiosi, una cosa veramente incredibile, che peraltro non meraviglia, perché era un po' lo schema della banda della Magliana che anni fa fu condannata, fu indagata e condannata in gran parte. E appunto i legami tra la banda della Magliana e la destra della Capitolina furono molto ben evidenziati. È chiaro che è possibile che qualcun altro si sia accodato. Se questo qualcun altro fa parte anche del mio partito, personalmente ho il più grande desiderio di saperlo, perché se qualcuno dei nostri si è comportato male sono i primi a dover finire in galera. Se viceversa si tratta di situazioni nelle quali si sono caduti o per stupidità o per inconsapevolezza o per mancanza di attenzione, sono cose diverse, ma evidentemente hanno fatto bene a chiarire subito la loro posizione dimettendosi tutti, perché in queste storie la chiarezza è fondamentale. Sì, poi questo non l'abbiamo ricordato, è importante, naturalmente si sono dimessi dalle loro cariche pubbliche, sia l'assessore coinvolto, indagato, sia il presidente del Consiglio Comunale. Questo è una regola che nel PD è centrale, nessuno di noi può sopravvivere dal punto di vista politico ad una situazione così pesante, almeno fino a quando le cose non si chiariscono, e da questo punto di vista la regola è stata rispettata. Senta Emiliano, abbiamo visto questa vicenda, c'è anche un'altra vicenda di queste settimane, che è la vicenda di un deputato, di Stefano, insomma, che ancora in parte coinvolto in un'inchiesta che lo riguarda. Lei ha l'impressione che il PD romano abbia effettivamente qualche problema, cioè forse potrebbe valer la pena azzerarlo o commissariarlo nei suoi organi? Ma io non credo che sia un problema del PD, è un problema di Roma. Che Roma sia una città fuori controllo da un po' di anni è un fatto che sappiamo tutti. È il problema che ha di fronte il suo sindaco, che noi ovviamente stiamo sostenendo in questo sforzo terrificante. Forse Marino non si aspettava di capitare in una situazione così complessa, però in tutta sincerità era evidente che la capitale d'Italia è un crocevia di spesa pubblica senza controllo, è un crocevia di intrighi e di complessità che probabilmente ha bisogno di uno sforzo particolare, non solo da un partito che è solo un'associazione non riconosciuta come ce ne sono tante. Purtroppo i partiti non hanno al proprio interno una capacità e un dispositivo tale da fermare inquinamenti di questo livello, sono soprattutto le forze di polizia, la magistratura, ma anche tutti coloro che sanno qualche cosa. È la stessa cosa che sta capitando a Ibra, a Ragusa, per la storia di quel bimbo che purtroppo è stato ucciso. Bisogna ricominciare con un'antica virtù civica a parlare anche dei vicini di casa, non per fare i delatori, ma per spiegare come evolvono le cose. Se ovviamente qualcuno anche nel Partito Democratico sa qualche cosa, deve comunicarlo immediatamente, perché questa è la volta buona in cui bisogna radere al suolo tutta questa terribile melassa che da molti decenni avvelena la più bella città del mondo dal mio punto di vista, e anche quella più importante per tutti gli italiani. Grazie a Michele Emiliano, candidato del PD alle regionali in Puglia, ex magistrato a capo di questa melassa. Come sapete c'era un ex terrorista nero, e c'è una domanda su costui che ci stiamo facendo un po' tutti. Daniele Biacchessi. In molti in queste ore si chiedono come Massimo Carminati, arrestato ieri accusato di essere il capo della nuova mafia romana, sia uscito sostanzialmente indenne da inchieste e processi relativi a molti misteri italiani rimasti ancora oggi irrisolti. Andiamo a sfogliare i vecchi faldoni di indagine. Massimo Carminati viene indagato dal giudice Guido Salvini per l'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, detto Iaio, due ragazzi di sinistra che frequentano il centro sociale Leoncavallo. Secondo l'accusa potrebbe essere stato lui a sparare in via Mancinelli a Milano la sera del 18 marzo del 78, due giorni dopo il rapimento di Aldo Moro e l'uccisione degli uomini della sua scorta. Infatti il killer è alto 1,70 m, indossa un impermeabile bianco, colpisce con una beretta calibro 7,65 modificata calibro 9 e utilizza un sacchetto di plastica per trattenere i bossoli. Tutti indizi compatibili, secondo Salvini, con le abitudini di Carminati. Si scopre che Fausto Tinelli vive in un appartamento con i genitori in via Montenevoso, al primo piano esattamente davanti al civico 8, dove si è insediata la direzione strategica delle BR, dove i carabinieri ritroveranno il 1 ottobre del 78 i manoscritti in memoriale di Aldo Moro. Nello stesso stabile della famiglia Tinelli, in una mansarda al quarto piano, i servizi segreti osservano da mesi le mosse dei brigatisti. A quel tempo il futuro re di Roma è già al vertice di una delle batterie della criminalità romana, ma è anche componente dei NAR, gruppo terroristico di destra. Lo stesso impermeabile bianco e lo stesso calibro di pistola torna a colpire Mino Pecorelli, il direttore dell'agenzia OP vicina ai servizi segreti, il 20 marzo del 79, e il giovane militante di sinistra Valerio Verbano, il 22 febbraio dell'80 a Roma, davanti ai suoi genitori legati. Con i vertici dei servizi sismi, Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte, viene coinvolto nelle indagini sul gravissimo depistaggio sul treno Taranto-Milano del 13 gennaio dell'81, successivo alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80, dove Carminati è accusato di aver fornito ai servizi segreti un mitra MAB inserito poi in una valigetta con giornali stranieri, vari barattoli con lo stesso esplosivo utilizzato per far saltare la stazione. Per tutti questi episodi Carminati viene assolto, prosciolto, oppure la sua posizione viene archiviata. Quali legami indicibili con pezzi dello Stato hanno permesso a Carminati una sostanziale impunità in 34 anni di sua attività? E soprattutto, quali connivenze con il mondo politico di ieri e di oggi lo hanno portato ad essere nei fatti il re della Roma criminale? Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La capitale e il suo mondo politico scossi dall'inchiesta con 100 indagati, le mani della cupola romana sulla gestione degli immigrati. Le condizioni del medico di emergency colpito da Ebola e ricoverato da Spallanzani sono leggermente migliorate. Attualmente non ha la febbre. Schettino è interrogato: io sulla nave come comandante sono il primo dopo Dio, ritardai l'allarme, dice, altrimenti si sarebbero tuffati. La riforma del mercato del lavoro, il governo mette la fiducia al Senato, la prima chiama alle 19. La borsa. Una marcia in più alle tue difese? Su con Sustenium Immuno Energy. È Menarini, in farmacia. Vi presenta Borse in diretta. E sono giornate evidentemente di grande attesa per le decisioni della Banca Centrale Europea che dovrebbero, potrebbero arrivare domani. A testimonianza di tutto questo guadagna il FTSE MIB 0,5 percentuale, altrettanto fa il FTSE OSHER, ma soprattutto il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni scende sotto i 2 punti percentuali, livelli che non si vedevano da parecchio, forse da mai. Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 Ore, buongiorno. Sì, il livello è molto basso e anche il listino azionario è in moderato rialzo, c'è cautela comunque in vista della riunione della Banca Centrale di domani. Milano è sostenuta da qualche singolo titolo che va particolarmente bene, come FCA che fa più 2,7%, BPM più 2,7%, Telecom più 2,4%. Sì, bene anche Azimut più 2,47%, Popolare di Milano più 2,34%, A2A più 2,14%. Una nota sull'euro che oggi era in calo, Isabella. Sì, anche l'euro ha perso parecchio terreno, adesso scambia poco sopra $1.23. Grazie Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Abbiamo parlato tanto di Roma per le inchieste, parliamo di Roma perché è avvenuto un importante ritrovamento archeologico. Una vasca risalente alla Roma imperiale è in grado di conservare più di 4 milioni di litri d'acqua. È quanto hanno portato alla luce i lavori in corso nella capitale per la fermata San Giovanni della metro C. Lo rivela Rossella Rea, responsabile scientifico degli scavi archeologici nel cantiere, secondo la quale si tratta del più grande bacino idrico mai ritrovato. Una vasca così grande, spiega, da superare il perimetro del cantiere tanto da non poterla scoprire interamente. Il bacino, foderato di coccio pesto idraulico, nel primo secolo si è aggiunto alle strutture di sollevamento e distribuzione idrica di un impianto agricolo attivo dal III secolo a.C. Appare probabile che la sua funzione principale fosse quella di riserva d'acqua per le coltivazioni, nonché vasca di compensazione per far fronte alle piene del vicino fiume. Le indagini archeologiche sono state realizzate dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma con la collaborazione tecnica della Cooperativa Archeologia, che ha messo in luce come gli antichi romani fossero scesi sino a 20 metri sotto il suolo. Lo scavo della nuova stazione metropolitana ha consentito, spiega sempre Rossella Rea, di spingere la ricerca archeologica a profondità non altrimenti raggiungibili, un'opportunità di ritrovare la storia del territorio dell'uomo attivo in quell'area dalla fine del VII secolo a.C. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, vorrei prima di tutto un suo giudizio su quello che abbiamo visto ieri, su questa grande inchiesta su Roma, che in realtà ha a che fare solamente in parte con la corruzione. In realtà però, insomma, abbiamo visto da questa inchiesta che tra l'altro si annida anche in settori che ritenevamo impensati, come quello della gestione dell'immigrazione. Cosa pensa? Faccia fare i complimenti alla Procura di Roma che li merita, perché questa è un'indagine da manuale, un'indagine che smentisce una serie di luoghi comuni ed è un'indagine che dimostra che quando l'attività investigativa è fatta bene riesce ad arrivare a cose, come lei giustamente diceva, impensabili. Io non credo che però, detto questo, ci siano settori che siano sostanzialmente indenni dall'intervento da parte della criminalità organizzata. Dovunque ci sono da fare affari, la criminalità organizzata è sempre presente, quindi questo, devo dire, mi meraviglia fino a un certo punto. Del resto, che il settore dell'immigrazione clandestina, dell'immigrazione, diciamo, collegata alla presenza dell'immigrazione clandestina, fosse uno dei settori sensibili di interessi da parte del malaffare era già emerso in altre occasioni, forse in questo caso è emerso con una presenza massiccia anche della criminalità organizzata. E questo sicuramente è un elemento interessante. È una scossa pazzesca, Cantone, anche dal lato di questo intreccio tra la politica e questa sorta di cupola che risulta fortissimo e trasversale. Guardi, credo che questo sia veramente il vero tema centrale della vicenda, cioè la capacità di questo organismo, di questo sistema di potere che la Procura di Roma ha definito di tipo mafioso, di interfacciarsi con tutti i mondi, interfacciarsi con i mondi della burocrazia, interfacciarsi con i mondi della politica in modo trasversale, avere referenti capaci di poter risolvere i problemi. Io credo che il sistema sia un po' un sistema emblematico di un certo modo di fare oggi la corruzione, che prescinde dal compimento degli atti e che porta i soggetti ad essere inglobati in meccanismi di tipo lobbistico, per cui io ho bisogno di risolvere un problema, già ho il soggetto sostanzialmente a disposizione. Questa è, sotto questo profilo, un'indagine che mette in evidenza, da un lato, i nuovi caratteri della corruzione che sono slegati agli atti e sono ormai veri e propri soggetti che vengono inseriti nelle strutture criminali, e dall'altro questo legame fortissimo che c'è fra corruzione e criminalità organizzata. A proposito di corruzione, oggi tra l'altro lei è stato alla presentazione, è stato presentato l'indice, quello annuale, di Transparency International. Qualcuno titola, forse erroneamente, siamo al 69esimo posto nel mondo per corruzione. In realtà è un indice che misura la percezione della corruzione, cioè quanto i cittadini pensano che il proprio paese sia corrotto. Questo è nella sostanza, però è chiaramente indicativo, perché 69esimo posto, ultimi in Europa, con una Germania che mi pare è 13esimo, cose di questo genere. E Transparency presenta anche una sorta di strumento per la denuncia della corruzione. Ritiene utile una cosa di questo genere? Ma guardi, noi lo abbiamo già applicato perché è previsto dalla legge. Su quello di Transparency io non mi pronuncio, perché è evidente che certi meccanismi hanno un senso quando arrivano agli uffici pubblici. Stiamo anche verificando se c'è uno spazio per creare dei meccanismi di collaborazione su questo senso su Transparency. Io credo che sia utile l'istituto del whistleblower, che è un istituto che ormai è entrato nel nostro testo unico degli impiegati civili dello Stato dopo la legge anticorruzione, perché questo dovrebbe far stimolare l'idea della collaborazione, cioè all'interno degli uffici non bisogna girarsi dall'altro lato e ovviamente bisogna tutelare chi non si gira dall'altro lato. Io credo che questo sia uno strumento utile, soprattutto se si fa capire qual è la posizione culturale e soprattutto se riusciamo a far capire, noi oggi proprio stiamo lavorando per provare a fare una delibera precisa sul concetto di whistleblower, se riusciamo per esempio anche a far capire la tutela della riservatezza che noi garantiamo a chi segnala questi illeciti. Io penso che questo sia un passaggio di una rivoluzione culturale indispensabile. Grazie Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, le auguro buona giornata. Germano Dottori, docente di studi strategici alla Luis Guido Carli, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Grazie e buongiorno anche a voi. A quanto pare anche i caccia iraniani sarebbero impegnati in una campagna di bombardamenti sulle postazioni dell'ISIS in Iraq. Anche questo è quello che dice il Pentagono, l'Iran non conferma ma nemmeno smentisce. Che cosa rappresenta questo, dottori? Ma in realtà l'Iran è già impegnato in modo abbastanza significativo nello scontro per il contenimento dell'espansione dell'ISIS. Questo ovviamente, se fosse verificato, cioè che c'è anche un impegno della componente aerea, rappresenterebbe soltanto un salto di qualità ulteriore, soprattutto dal punto di vista simbolico, perché in realtà le capacità dell'aeronautica iraniana al momento non sono straordinarie, sappiamo tra l'altro che sono stati impiegati aerei vecchi di mezzo secolo che sono stati comprati ai tempi dello Shah, e quindi non è che sia una cosa di diciamo sconvolgente, l'allineamento è quello che è. Mi pare soprattutto comunque che tanto gli americani quanto gli iraniani tengano a sottolineare che non c'è alcuna cooperazione operativa sul terreno, cioè ognuno si muove contro l'ISIS per conto proprio, anche se poi in realtà evidentemente la comunanza di nemico, qualche forma di sinergia prima o poi potrebbe finire per imporla. Grazie Germano Dottori, docente di studi strategici alla Luis Guido Carli di Roma. Noi ci fermiamo, c'è il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, ieri abbiamo parlato di crescita, oggi continuiamo a parlare di crescita. La sfida è troppo importante perché sia sottovalutata. Cominciamo dalla notizia di ieri, molto interessante, un nuovo record a Wall Street. Here's how the markets closed on this Tuesday, December 2nd. Wall Street finished higher across the board. The Dow Jones Industrial hit another record close. Stocks rose on car makers reporting better than expected November sales. Avete sentito? Quota 17.880. L'indice Dow Jones continua a correre. Siamo vicini a quota 18.000. Qualcuno potrebbe dire follie. Beh, saranno anche delle follie, però l'America cresce, crea occupazione grazie a una strategia di politica economica che è diametralmente opposta a quella europea. Da una parte si preme sull'acceleratore, dall'altra si frena. E in America spingere sull'acceleratore in cosa si è tradotto? Beh, per esempio in un aumento molto buono delle vendite d'auto per il mese di novembre, pensate, solo la Chrysler più 20%. I prezzi del petrolio, dopo l'aumento dell'altro giorno del 4%, continua a essere in calo, meno 3%, siamo a quota 66,88. Insomma, il quadro è favorevole e positivo, l'Europa potrebbe partecipare a questa situazione così favorevole, eppure continua a restare indietro. Domani, giornata importante, la BCE dovrà annunciare manovre accomodanti per l'economia. Ho con me i microfoni di America 24 proprio per parlare di crescita e di Europa, Marco Magnani della Harvard Kennedy School of Government, appena pubblicato un libro in argomento, Creating Economic Growth Lessons for Europe, la creazione di crescita economica, lezioni per l'Europa, pubblicato in inglese da Pelgrave Macmillan. Buongiorno Magnani. Buongiorno. Allora, l'America cresce e l'Europa no, qual è la sua posizione? La Fed e gli Stati Uniti hanno utilizzato entrambi i remi della barca nel momento della recessione, nel momento in cui c'era il mare in burrasca. L'Europa purtroppo è la Banca Centrale Europea, per vari motivi si ostentano a non utilizzare i due remi, a continuare a galleggiare, a non utilizzare né la politica monetaria né quella fiscale, o quantomeno a non usarle così bene come potrebbero. E perché questo? Perché la Germania si oppone? Perché io ieri, diciamo, ho usato parole anche un po' dure contro la rigidità tedesca. Tutti sappiamo che la Germania pone molta pressione sulla Banca Centrale Europea e il cui maggior focus rimane e continua a rimanere la stabilità dei prezzi, cioè la paura dell'inflazione. Siamo invece in un momento in cui, ce lo ricordano anche alcuni dati recenti, l'inflazione in Europa è bassissima, siamo 0,2-0,3% mi sembra al mese di novembre, quindi il vero pericolo non è l'inflazione ma una deflazione, e basta guardare al Giappone degli ultimi 15 anni e la difficoltà con la quale il Giappone sta cercando di uscire da 15 anni di deflazione per vedere quanto è pericoloso questo tipo di situazione. Ecco, non solo inflazione, ma la Germania, dal mio punto di vista, non so cosa pensa lei, ha approfittato di questa situazione, cioè ha creato un'area euro che è a suo vantaggio, perché ha una fortissima competitività sul cambio in relazione all'andamento dell'economia, non solo, ma dei surplus commerciali superiori al 6%, addirittura del 7%, eppure non ci sono delle manovre fiscali né a livello interno né incoraggiate a livello europeo per controbilanciare questa situazione. Potrebbe essere quella una delle soluzioni? Forti investimenti, insomma, quando abbiamo visto l'annuncio l'altro giorno del presidente europeo, la montagna ha partorito il topolino, dovevano essere 300 e passa miliardi di euro, poi alla fine erano 21, o sbaglio? Certamente in questo momento serve un forte stimolo alla domanda. Negli Stati Uniti, dove ci sono dati economici estremamente positivi di crescita e di occupazione, i consumi hanno migliorato ma non sono ancora forti come gli anni scorsi, perché c'è ancora grande nervosismo, e quindi basta questo nervosismo per stimolare la Fed a continuare a stampare moneta. In Europa servono invece stimoli molto forti ai consumi e devono essere fatti a livello europeo. Perché questo? Perché certi paesi, l'Italia è l'esempio principale, hanno dei vincoli di bilancio enormi che non consentono loro di fare una politica fiscale indipendente. Quindi lo sforzo deve essere a livello europeo e deve essere condiviso. La Germania deve essere il leader di questo sforzo, perché la Germania oggi è il vero leader europeo. Ecco, ma la Germania frena. Allora, come la cambiamo la testa dei tedeschi, che su questo continuano ad essere preoccupati da inflazione, da rischio di disavanzo eccessivo, da rischio di dover assorbire i costi degli altri paesi, tra virgolette, pelandroni? Cioè, come si dice, ci sono o ci fanno? Perché viene anche il dubbio. Ma direi tutte e due, nel senso che l'establishment politico ed economico della Germania comprende perfettamente la situazione, però poi c'è la pancia, cioè sono persone che votano, e naturalmente Angela Merkel è molto sensibile a questo e ha difficoltà a spiegare ai tedeschi come stanno le cose, quindi c'è questa tensione interna. Il problema è che l'Europa non può pagare per tensioni interne politiche tedesche. Domani ci sarà un annuncio della BCE, Draghi forse ha fatto già molto, ma lei cosa si aspetterebbe da Draghi e cosa vorrebbe da Bruxelles? Le avevo chiesto prima se lo stanziamento annunciato da Juncker era ben pochino, cosa vorrebbe? Da Mario Draghi ha fatto già anche troppo, ha fatto moltissimo, ha fatto oltre quello che gli consente lo statuto della Banca Centrale Europea, deve però continuare in questa strada di rassicurare i mercati che la Banca Centrale farà tutto il possibile per mantenere alti i consumi. Da Bruxelles invece mi aspetto molto di più, e soprattutto dai governi che sono rappresentati a Bruxelles, e cioè di capire che i tempi sono difficili e se non ci diamo una mossa finiamo come il Giappone. Ecco, per chiudere, ma l'Europa sta rischiando di perdere il treno con tutti gli altri grandi paesi in crescita? È vero, in Cina un po' più in indebolimento, però sta esplodendo. Ma direi che l'Europa non solo rischia di perdere il treno, ma forse un treno l'ha già perso, cioè negli ultimi 10 anni aveva perso un'occasione straordinaria di presentarci alla sfida con la Cina, con gli Stati Uniti, la sfida economica naturalmente, come il più grande mercato del mondo, come un gruppo di paesi coeso con una moneta unica che possa utilizzare la politica fiscale monetaria per stimolare la crescita. Questo treno temo che l'abbiamo già perso, possiamo solo cercare di recuperare. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato dell'Europa che non riesce a farcela, questa Europa che una volta era al centro del mondo e, come ci ha detto Magnani, ha perso dei treni, perde un treno, ma chissà che non ce la faccia davvero. Dunque rifugiamoci nel passato e con un viaggio sentimentale nel passato, Sentimental Journey di Frank Sinatra, un classico, quando dice "Like a child in wild anticipation, let me hear that all aboard", come un bambino in ansiosa attesa, fatemi risentire quelle parole, tutti a bordo. All aboard, 7, that's the time we leave at 7, I'll be waiting up for heaven. track that moves me back. Per ora è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto per effetto giorno @radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook come sempre www.facebook.com/effettogiorno. I ringraziamenti, Pietro Lacorte in regia, Laura Fagini in assistenza in redazione, a tutta la redazione di Radio 24. La trasmissione torna domani alle 13, noi ci risentiamo tra un istante, tra poco, con GR24.